eravamo bambini, dai eravamo sciocchini. Lo ammetto, ero invidioso del tuo petto muscoloso. Tu piacevi molto a tutti, io ero l'ultimo dei brutti. Poi siamo cresciuti ed io fui tra i dissoluti. E tu invece eri assennato, certo saggio, sveglio e ponderato. Mi volevi pure bene, t'avrei tagliato Dio le vene. Finimmo poi gli studi, tu a gran voti ed io a sputi. Nel mercato del lavoro, io a terra e a te ogni alloro. Ma qui cambian le cose, diventano curiose. Dal sole arrivò un raggio, scoprì che ero in vantaggio. Tu sei bello e buono e sai fare molto frastuono. Però tuo padre niente, il mio è un presidente. Vola, vola, vola, vola sempre più in alto. Tanto lo daranno a me in ogni caso l'appalto. Vola grande uomo, divertiti pure, tanto che ti sbatti andrò dal manicure. Anche coi tuoi poteri sei sempre in minoranza, farai sempre la fame mentre cresce la mia panza. Io faccio bei quattrini e tu a mangiar grissini. Io sto in una gran villa e tu stai fra i gorilla a far questa tua vita. Anche Lois è ormai sfinita, poverina è venuta a star da me. Martedì verso le 3 ti sognavo la notte, ora dormi in roulotte. La criptonite, lo sai che cos'è? Che io ho più soldi e conoscenze di te. Vola, vola, vola, vola sempre più in alto. Tanto lo daranno a me in ogni caso l'appalto. Vola grande uomo, divertiti pure, mentre tu ti sbatti andrò dal manicure. Anche coi tuoi poteri sei sempre in minoranza, farai sempre la fame mentre cresce la mia panza.